mesi, poi c'è l'avvento di questo apparato qua che eccetera eccetera, anche perché l'altro è agganciato alla verticale, hai capito? E quindi si sente sempre il gas da paghissimo. Va bene, Tony, allora vado anch'io, dai, tanto sto facendo roba qui. Claudio, sei rientrato? Vediamo chi altri ci può essere qua. Antonio, ci sei ancora? Niente, tutti morti. Roberto, sei rientrato? Niente, tutti morti. Oh, sono le 8, adesso è l'ora del telegiornale, roba del genere. Io vado a farmi il caffè, tu non lo so poi. Guarda, se ti ascolti il messaggio, senti come stavi uscendo. Già c'è avvisato. L'ho ascoltato stasera quando sono andato un attimo dallo spi. Già l'ho sentito, questa tornata strana. E domani adesso me la tocco con la tornata, non ti preoccupare, che il sistema tutto. Diventa bene dall'alimentatore in basso, potrei metterlo in alto, eccetera, eccetera, che c'è tutto uno attaccato all'altro, capito? C'è il tavolo pieno di roba, tra casse, mi hanno regalato un impianto di quelli a blocco interfizi, sono dei DVD, cazzo, ho cambiato la cinghietta, allora come si chiama? Ah, per chiudere ma non legge, va a far culo, e quindi adesso bisogna che lo controllo bene. E c'è da cambiare la fare, non aggiungare, più di un lampo DVD, già uso il DVD normale e funziona bene lo stesso. Me l'ho utilizzato l'applicatore, la radio, il sintonizzatore e le cassette, non casse. Le casse sono per da piazzare. Poi invece ho buttato un video di stazione che non ne voleva manco la pena aggiustarlo, gli pigliato direttamente nel cassonetto. E anche un DVD che ho buttato. Ed è arrivato, cosa ne vuoto? Vado in più la casa di non detto, non sarà. E tu Antonetti, si è preso niente di veicolo? Due ruote, tre ruote, quattro ruote? Non c'avevi un progetto? Tipo quelli con la targa senza la patente, da guidare così, tipo due tempi o cosa era, col motore 50 a me. Io non ho potuto piegare niente, mi sono rimasto un mese e mezzo senza soldi, ma era male, me l'avevo messo da parte e quindi sono riuscito ad andare bene tutto il mese di ottobre e novembre, anzi quasi metà novembre ho preso tempo. C'è la secca di tua cittadinanza, dopo che finisci 18 mesi stai un mese e mezzo senza avere un tubo, hai capito? Ho fatto un reddito d'emergenza, non me l'hanno accettato e allora meno male il 20 mi sembra che mi è arrivato il messaggio, mi avevano accreditato i soldi, meno male, se no me lo sarei preso, adesso devo vedere un pochettino. Secondo me, ma adesso vabbè, siamo in inverno, questa casa me lo piglia a fare la cosa elettrica, non me ne farei proprio niente, lo lascerei in garage in pratica a marcire. Se vogliamo è buco senza, vediamo un po', se incasso un po' di soldi me la prendo, così vado a fare la spesa con quella, perché a un contatto di contatto me la scende la massa, me la scende. Sì, a piedi puoi portare poca roba, a meno che tu non vada in tram. Una volta andavi in via, come si chiama quella via? Verona, via Verona, allora spendi via Verona, ma presumo in tram, no? A piedi, no? Me la facevo a piedi da casa fino a via Verona, poi ovviamente prendevo naturalmente le buste, due buste piene, e andavo fino a Granante e la Granante poi prendevo la 25 e sarevo a casa. Vabbè, l'ho andato a piedi perché va bene o male. Tu da dove passavi per via Verona? Facevi quel pezzo di macchina, cioè andavi via Milano, quella zona lì facevi, quella che facevamo in macchina noi per andare via Verona. Ma è lungo, non ti passa più a piedi, cioè. Tanto il biglietto dura 30 minuti, Antonè, va 90 minuti, perdona, 90 minuti, potevi fare e su e giù, capito? Potevi scendere e risalire con un unico biglietto, sempre che tu lo paghi, inteso. Ti hanno pago il biglietto, qua. Bisogna che prendo la 4, la 4 mi deve fermare in via Napoli, a via Napoli potevo fare tutto per Verona a piedi, quindi per non stare a fare tutto quel giro strano così in tram, allora facevo via Carlo Felice, via Luca degli Abruzzi, via Luca degli Abruzzi direttamente giù, via Catalocchino, via Catalocchino direttamente via Verona, via Verona entravo dai Rossini che c'era, poi alla Frizza facevo in pratica via Verona, via Catalocchino, poi via Civitavecchia, passavo da Nicco, quando era aperto, mi avevo una birra, aspettavo, quanto posso dire, 4 ore 20 minuti dopo avevo finito la birra, andavo, mi prendevo la 25 in via Levante, capito? E prendevo a casa. Nel frattempo ho acceso la macchina del caffè, e io non riesco a risalire al modello perché si è cancellata quella targhetta che hanno sotto, no, dove c'è marca modello, praticamente una DeLonghi di tanti anni fa, però non riesco a risalire al modello, e su internet non c'è perché è troppo vecchio, capito? E vabbè, pazienza. Ma che cosa, la macchina del caffè? Antonè, non sei un po' cupo? Hai chiesto se ho preso la macchina del caffè? No, ce l'ho da tanto, no? Stavo pensando se chiedere un ricambio che mi serve oppure cambiarla, ma mi sa che la cambio. Mi piacerebbe a capsule, però non vorrei che costasse un bel di più il caffè. D'altronde è anche più buono, più aromatico. Giovanna ne ha due di macchine del caffè, mi. Ne ha una piccola e una grande, cioè la grande la sta usando, la piccola è conservata, l'ho usata io due volte, la verità. Ho preso le cialde di Ruspi, quelle con la scritta celeste, li tagliavo i bordi esterni, poi ci filavo la cialda all'interno con le mani, ce la mettevo lì e in pratica posso usare le cialde su originale, usavo quelle di Ruspi. La verità, il caffè era anche buono perché le cialde della lavata sono pesanti, io l'ho assaggiata e non te ne dico nulla per quel caffè, sono stato tutta la mattina male, mi sentivo tutto strano, allora ho preso e pensavo l'avevo fatto quel lavoro lì, poi ho detto Giovanni, Simona usa la caffettiera, ho preso quel caffè celeste, quello leggero, e gli ho detonato la macchinetta, c'era lei conservata a casa, c'era, non la sta neanche usando, e dentro la scatola è tutto, chiedilo se te lo vende, tanto non se ne fa nulla, non ci devi mettere le cialde della lavata, vabbè ci puoi mettere anche le altre volendo, non è che non è quello il problema. Marco, ma non è un controllo per favore, ciao Antonio, che sto provando un vintage. Sì, bene, orecchiometro potrebbe essere la base 3104 e l'MB più 5, però potrei sbagliare. No, 3104 con l'MB più 5, va bene, è azzeccato. No, perché ho messo il commutatore, quindi adesso posso commutare praticamente da una base all'altra, da una scrivania all'altra, quindi stavo facendo le prove se c'erano fischi o qualche anomalia, dai. No, nessun fischio, nessuna anomalia, naturalmente c'è sempre un po' troppo l'effetto stanza, no? Si sente un bel rimbombare e vabbè. Sì, vabbè, l'effetto stanza, pronto, la modulazione sia buona e forte. Adesso cambio radio e metto un DAC che ancora non ho provato, non so mai sia qualche connettore che non vada bene in queste prolunghe che ho fatto da una base all'altra. Avanti Antonio. Sì, ciao che l'abbia sentito, saluttori. Ma già siamo qua, non ti preoccupare. Sì, allora vabbè, quella sta scaldando. Sì Antone, ti dicevo, se cambio però mi prendo quella a capsule, non a cialde. Però Antone, no, cioè un caffè non ti può far male, eh? Tu troppo spesso mi dici che mangi una cosa banale e stai male tutta la mattina, bevi una cosa banale, cioè per me banale, e stai male tutta la sera. Ma non è che c'hai celiachia, roba del genere, no? Mi sentite? Ho voglia. No, filiacchino mio, stai tranquillo, Marco. Ci ho pensato per venire di stomaco, anche perché sono sempre capito da una cosa all'altra, stressato con Simona. Quando esco, devo fare la spesa, mi telefona, neanche dopo un minuto, aiuto, dove sei, dove non sei, non voglio stare da sola, eccetera, eccetera. È capito che mi viene lo stress e mi si blocca lo stomaco per quello, capito? No, non è per altro. Il caffè a voglia, già quello della lavata è molto pesante, la verità, non fa. No, l'altro già lo so bevuto e non mi fa nulla. Quindi mi vedete, mi sentite? Anche questa va bene, Marco? Ottimo. Allora, vabbè, tra le due preferisco questa, è meno rimbombante. L'altra è proprio molto effetto stanza, qua se ne sente meno. Quindi il DAC, il mic originale oppure... No, io ho 5 basi, tutte e 5 con l'MB più 5. Tutte 5 MB più 5, anche il DAC è questo con l'MB più 5, ok? Quindi se mi dice che va bene, vuol dire che non ci sono problemi negli spezzoni che ho fatto, dai, sono degli spezzoni da 3 metri, insomma, da una base all'altra, dai, perché camminano sotto la zoccolatura, quindi devono essere, non si vedono, dai, ok? Riga. Ma tu eri che aveva casino con gli spezzoni, ho sentito bestemmiare qualcuno l'altro giorno per colpa dei soliti PL di Fusaro. No, era Antonio, mi sembra. Sì, anche a me me l'ha fatto, sì. No, li ho buttati via quelli bianchi, no, c'ho quelli in bacchilite marrone, ne avevo comprato un pochino, ne ho utilizzato 4, ne ho ancora altre 3 o 4 mi sembra che mi servono per fare altri spezzoni. Va bene, fortunatamente adesso posso commutare da una base all'altra e decidere quale radio usare, se un baracchino, se un HF, se altre cose, insomma. Ottimo lavoro, va bene, almeno non confondiamo la lana con la seta, i baracchini con i baracchini e gli HF con gli HF. Già stavo seguendo il discorso prima, però vabbè, claro, tu hai generalizzato, no? Invece Roberto aveva specificato che diciamo il 497 era molto sensibile in ricezione ma meno rumoroso, cioè lui non ha valutato tutto l'apparato che è migliore del 140, ha valutato la ricezione e lui nella sua installazione si è accorto che il 140 era più rumoroso, magari ugualmente sensibile però più rumoroso, l'altro era più pulito col 497. Poi chi lo sa, dipende molto dall'installazione, Claudio. Io mi ricordo una cosa, quando io ho fatto le prove di ricezione in 40 metri con antenna veicolare risonante, no? Io mi ricordo che rispetto all'857, sempre e solo in ricezione, l'857 era molto più silenzioso, per dire. Il 140, nonostante l'antenna corta veicolare, era abbastanza rumoroso, capito? Poi dipende anche da 140, qualcuno sarà un po' più, non lo so, sarà più dalla, non lo so Claudio, dall'installazione. Per esempio, faccio un esempio per la terra, io qua all'altezza di antenna sono i palazzi di Via Savoia, quindi questa è una zona abbastanza quarremosa, mi dico, quarremo elettrico. E io mi lamentavo proprio che non potendo mettere lo squelch su 140 devo stare sempre con questo rumore, c'è capito? Poi se abbassavo giustamente il locale di X o l'RF gain, però poi mi chiudevo i segnali bassi, capito? Mi sparivano i segnali bassi. Quindi ricordati, Roberto ha valutato solo la rumorosità, ecco, del 140 rispetto al 497. È tutto lì, tu hai generalizzato, diciamo, capito Claudio, riprendi. Generalizzato sì, va bene, ci sta, però io ho puntualizzato soprattutto alcune cose, perché io che uso da anni il 140 non Non ho mai sentito rumore, l'ho detto tutti, cioè per me evidentemente è come lo installate, dove lo usate, non lo so. Per me è un certo è che non è il top degli HF, attenzione. No, io posso garantire che non è il top degli HF. È un baracchino, una radio a sintonia continua, diciamo, ma non è certamente il top dell'HF, su questo non ci piove. Però da sentire che ha la ricezione migliore 140 con la radio che io ho usato tra l'altro per tantissime volte, dopo due, e le avevo vendute perché poi chiaramente cambiavo, facevo, avendo vintage, ne ho dato anche un bel po' a Gianni, ne ho dato un po' a lui, eccetera, quindi cambiavo. Ed è chiaro che io non ho mai fatto queste comparazioni perché non mi permetto neanche di farle. Cosa, che comparazione devo fare? Da un 140 a un vintage di che è un baracchino? Dai, cioè stiamo parlando di una sintonia continua con un baracchino canalizzato. Sono cose che io ho già fatto, ho già visto e per me non è così. Ecco, puntualizzato quello. Se poi lui, per lui va meglio così, io ti ripeto, apprezzo ma non condivido, come si dice, no? Perciò, forse perché ho troppa esperienza nei Kenwood e negli HF rispetto a voi, da CB naturalmente, e quindi mi posso permettere di fare queste comparazioni, però non esattamente così. Avanti Antonio, riprendi. L'unica cosa che... Guarda, il 140 e il 180 vanno bene in via di Zitto, lì c'è poco traffico e quindi, vabbè, adesso è cambiata la cosa perché c'è un po' di traffico di nuovo, anzi è tornata come prima, perché prima c'era il traffico perché c'erano le palestre aperte, eccetera, eccetera, adesso invece quelle palestre sono tutte chiuse, quindi auto ne passano pochissime. Però io quando ho usato il coso, il 180 quando mi è venuto tu, l'ho piazzato via Rizzello e parlavo tranquillamente con Cagliari, lo sentivo chiaro, 7,5. Se invece è piazzato qua, dove abito io, con tutti questi problemi dei tralicci e poi traffico vario, eccetera, eccetera, allora è da lampati, il 140 e anche il 180. Ecco perché ho preso l'857D, per quel motivo, perché arrivavo alle 6 di sera, nelle orecchie non ce la facevano più, dovevo usare per forza due antenne, una, cioè 140, il 140 o 180 in trasmissione e il 3009 in ricezione, perché era l'unico metodo per poter eliminare quei problemi, se no uscivo di testa. Sì, Antonio, mi hai detto bene, dipende anche dal posto in cui io sono molto isolato, è un palazzo altissimo, ho un piano di massa allucinante, non ho, c'ho QRM, ho mai avuto QRM in vita mia, quindi non sento queste da poter comparare e fare questi paragoni, capito? Lì dove c'è Roberto è un mare di ferro, cioè, capito, nel tetto, l'officina sotto, tutte le cose, eccetera. Cioè, sono tante cose che io ripeto, per la mia esperienza, attenzione, io non voglio assolutamente infierire nelle radio degli altri, ognuno si vanta la cosa sua, però io per tutte le prove che ho fatto, eccetera, non posso mai, e poi mai, non mi posso permettere, con l'esperienza che ho, ripeto, ribadisco, di poter fare un paragone tra un baracchino e un HF anche di non eccezionale, ma stiamo parlando sempre di un HF a sintonia continua con dei parametri completamente diversi, dell'elettronica completamente diversa, componentistica completamente diversa, quindi assolutamente. Vai Marco. Sì, lui poi avrebbe, dice, qualsiasi prova, lui avrebbe voluto fare, non dico la scommessa, ma la prova, cioè un 140 con la stessa antenna ovviamente, prove di ricezione, no? E far vedere le qualità dell'uno e dell'altro, o le pecche dell'uno e dell'altro. E sarebbe interessante quella come prova comparativa, solo ricezione, capito? Con segnali magari bassini, con gente lontana. E via. Guarda, io il 140, per esempio, che la mia voce non fosse adatta a bassi, posso... Io praticamente quello perché l'ho dato nel 140, una delle cose imperdonabili è proprio quella che non aveva lo squelch, lo sai. Forse se avessi avuto lo squelch funzionante in AM, perché lì funzionava in FM, in SSB non credo, non me lo ricordo. Però se avessi avuto forse lo squelch in AM l'avrei tenuto, lo sai. Passi la modulazione che da me non rendeva, per il resto vattene aveva, colpi non ne prendeva. Avevo lo Smither che era impagabile, però me, anche Antonello, lì poi Antonello c'ha anche lui, anzi lui più che mai, lui c'ha quei tralicci dell'alta tensione, quindi dice lui diventava sordo con i 140 e non poteva nemmeno mettere lo squelch, o sbaglio Antonello? No, squelch non potevo mettere, io i segnali di... che o te passava l'8 e 9 riuscivo a sentirlo, ma con i filtri né B1 né B2 riuscivo a eliminare questo problema. L'unico punto dove ho fatto il 680 era via di zitto, piazzato su con la Grand Play e sopra il tetto di via di zitto. Tranquillamente QRM 0 ho avuto, 0, infatti ho toccato il tavolo, ho detto antenna l'avete staccata sta parte, e invece sentivo iniziare puliti, sentivo Cagliari addirittura, Santiago 5-6 e non lo sentivo, non a me Villacino. Io ti parlo prima, quando mi sono appena trasferito, che allora c'era rimasto ancora il garage, e allora avevo piazzato il baracchino nel garage, il cavo l'avevo fatto scendere all'esterno, la 1058, e lo facevo entrare in garage, rimaneva appeso lui. Dopodiché mi hanno detto cosa, ha preso e ho staccato tutto. Infatti ci avevo buttato cavo a Gran Play, tutto quanto, non ho recuperato niente. Ha già stato tutto quanto in chimica, ci era stato, capito? Tu quando ho fatto il tetto nuovo, ti hai lampato tutto da una parte, in quel palazzo lì. Però ti sto dicendo, lì, per il tempo, se avrei avuto, guarda, la posta essere qui, come stazione, e... Sono stato in via di zitto ancora, in questo momento abitando, sono tranquillo, avrei lasciato il chilo, perché non avevo, il 680 non l'avevo mai venduto, perché era l'unico apparecchio che ci va bene, e claro già lo sta, mi ha dato un sacco di soddisfazione. Però qua, purtroppo, quando sono arrivato qua a abitare, è incominciato questo QRM, cazzo, mamma mia, anzi, quando c'era vento era ancora peggio, perché sentivo i tralicci e facevo il... non riuscivo a eliminare quel problema, non c'era verso, ho provato anche il 757GX2, te lo ricordi, quello che mi ha dato Stefano, tu mi hai detto un giorno, mi vedrai Antonio che ti dura mezz'ora, e infatti quanto è durato, 9:30, però quello, vedi, quello c'aveva i filtri, e quello riuscivo a sentire bene. L'unico problema che hai avuto, quel tipo di apparecchi, hanno quella specie di vento, ma... e se non l'apparecchio non lo curi, si infiora e crepi subito il finale. Così infatti era successo, se ti ricordi bene. C'era qualcuno sotto di te, chi è che vuole entrare avanti? Buonasera a tutti, buonasera, io sono. Ho schiacciato un attimino il ritardo, dai, buonasera Antonio sono. Intanto non ti aveva riconosciuto nessuno, ciao Anto. Allora, per rispondere a te Antonio, poi rilancio a Marco, per usare bene il 140 e il 680, che sono quelli più semplici da usare, in AM, io tante volte, quando me li hanno portati, no, per fare, magari anche per memorizzarlo, perché si incasinavano, sai che bisogna tenere premuto A uguale B, dopo il canale 10 sino al canale 20, bisogna tenere premuto A uguale B, altrimenti ti appare lo split, no? Molti non lo sapevano fare, quindi me lo portavo a me, avevo l'NB1 disattivato e praticamente, se mi ricordo, l'NB level tutto a sinistra. Non va bene così, non va bene, perché quello è un filtro che funziona, se funziona in AM, quello funziona. In banda laterale non serve a niente, ma in AM e in FM quello funziona. Quindi bisogna tenere l'NB1 premuto e l'NB level, no? Il livello del filtro, a metà, e tu non avrai mai un rumore di moto, di scarica elettrostatica, di niente, di niente. Quindi continuo a ribadire che molti non hanno neanche saputo né usare né apprezzare, capito? Senza infierire a nessuno, però è così, la realtà è quella. Poi Marco, per rispondere a te, la radio, Roberto, che la porti qua, si siede a fianco a me, perché la mia ricezione non è come la sua, è completamente diversa. O chiunque, Gianni, se vuole venire, non c'è problema. Io lo metto a fianco al 140 e facciamo tutte le prove che vogliamo fare. Ok? CNM, CNFM, CN banda laterale, dove vogliono loro? Vediamo chi ha ragione, ma è assurda una cosa del genere, capito? È completamente assurda. Vabbè, chiuso il discorso, dai, ognuno rifletta, apprezza le cose sue, ma a sentire queste cose io non sono molto d'accordo, ripeto. Avanti Marco, riprendi. Gianni ce l'ha, anche Gianni ce l'ha il 4, quello lì là, il Mobicom, no? Però Gianni non l'ha, più di tanto non l'ha, come dire, non ha apprezzato la silenziosità in ricezione, comunque la pulizia di ricezione, mi. Sì, secondo me molto dipende dalle installazioni, capito? Meno roba hai intorno, meno palazzi hai, e tanto nei palazzi ci sono i televisori, gli switching, le lampadine cinesi, che non te ne dico niente, neanche qua facendo la prova con antennini interi. Accendi la luce, sono tutte le lampadine a LED ormai, e poi sono tutte fatte in Cina. Devi sentire la rumorosità che introducono queste lampadine, è una cosa incredibile. Tutta questa mondezza di rumore non si sentiva, che ne so, 30 anni fa. Mi pare che ieri, chi era che aveva detto una cosa del genere, che 30 anni fa non c'era il QRM che c'è oggi, forse Bruno l'aveva detto, non mi ricordo. E in effetti all'epoca non c'era tutta la robaccia, tra virgolette, cinese, che c'è adesso, cioè switching anche di basso livello, lampadine a LED, questi televisori lo stesso, vabbè, l'alimentatore, c'hanno l'alimentazione a 220, però introducono un rumore che quando hai una radio trasmittente, tipo baracchino, vabbè, VU1 non te ne accorgi. Ma 27 senti di tutto e di più, poi lo sai, ogni tanto senti fischi, fiaschi, ronzii, di tutto e di più, dipende dagli orari, in base a cosa accende la gente. Poi però, per esempio, accendi a notte fonda qua, quando tutti hanno spento tutto, sono a dormire, è già molto ma molto più silenzioso. E la cosa era carina da fare anche con prova, anche per vedere davvero chi la spuntava, amico, come ricevitore. E documentare con qualche video, così almeno lo vedono tutti, eccetera. Io l'unica prova che ho potuto fare comparativa era, ripeto, in 40 metri, antenna veicolare accordata, cioè risonante comunque. L'857 non aveva un filo di QRM, aveva una pulizia folle di ricezione, senza filtri e senza il fasullo DSP, che poi è fasullo sull'857, capito? Agisce sull'audio, non è un vero DSP, cioè togliendo tutti i filtri, eccetera. E il 140 invece, sempre con un veicolo spento, aveva una rumorosità più evidente, capito Claudio? Sempre farlo 40 metri, quindi in banda laterale. Le prove di ricezione, naturalmente io trasmettere assolutamente, ci mancherebbe, era una prova che volevo fare tanti anni fa, adesso non c'ho più niente. A proposito, vabbè, mi stavo guardando qualcosa tipo, non tipo Texun, una cosa, se è una radiolina piccola, portatile, che riceve AM, SB, FM, banda aerea, quello va bene per ricevere dalla macchina come faccio io, capito, le bande decametriche. Costa anche molto poco, stavo pensando a Natale di prendermela. Aspetta, chi rilancio? Antonello, riprendi tu adesso, vai, che vado a fare il caffè a brevissimo. Antonio, vai. Stavo ascoltando un discorso, stavo ascoltando. che io qua ho rumori, su un canale Alfa c'è questo segnale che mi arriva anche quasi 9:20, va e viene, va e viene. E qua è un po' strano, a volte c'è il correme alto, però quando c'erano le antenne più corte non si poteva stare. Da quando ho montato questi ring non ho più problemi di QRM, no, ma mi ammazzava, molte volte non riuscivo a sentire gli altri. Tanto guarda che nel canale Alfa, dove dici tu, ci sono quegli apparecchi che usano in camera da letto per i bambini, quindi non fare mania con ascoltare quando fanno a fare cicucciumi. Cosa si dice? Su questa banda, sull'11 Alfa, sull'11 Alfa e anche sul altro canale Alfa. Perché quando abitavo io al centro storico, il conservatore Emanuele, doveva intervenire la Righissi. A parte, vabbè, i PMR che usavano le brasiliane, perché parlavano tra loro, figurati tu. Comunque, lì al centro storico è pieno di quei, mi si chiamano baby, adesso non quei trasmettitori che si agganciano per i bambini piccoli, quando li metti a letto, hai capito? Cioè ci sono ancora, vanno sulla 27, addirittura ce ne sono che lavorano in 49 MHz, addirittura, perché quando facevo il cavolo lì al centro storico mi facevo la carrellata delle frequenze e partivi 49,7 e era boga cosa, se no vabbè, allora c'erano anche quei telefoni corda, questi famosi, che si usavano e mi divertivo, ci potevo anche parlare addirittura, non solo l'altro. Comunque quegli affari li stanno ancora usando, quelli della 27, che sono i migliori che escono, quindi 49 MHz non pompano nulla. Scusa Anto un attimo, dai, che devo chiudere, che è pronta la cena, c'è anche un break. Ok, io vi saluto, ciao Antonio, ciao Marco, ciao Antonello, rilancio a te Antonio, fa entrare il break, dai, correti per me alle prossime. Avanti il break! Stanno parlando? No, c'è un break, avanti il break. Vabbè, non vuole entrare, dai, vi saluto tutti, buon fine serata, alle prossime. Ok, quindi Marco mi confermi che così va bene, va bene, dai. Le spezioni sono regolari, avevo paura che c'era qualche PL in corto, ma non sono riuscito a metterlo in corto. Dai, ti ripasso il cambio, vai per Antonio che non ha ancora parlato, e vi saluto tutti, ciao ciao. Ciao Lugarino, un abbraccio, dai, ciao a tutti che chiudo, ciao ciao. Ciao Clap, ciao, guarda che vado a cenare, ciao Antonio, ciao Marco, non so che ci sia rimasto, Pompone, boh, vado a mangiarmi qualcosa. Bene va Luca lì da te con questo Intec. Che è avanti Marco? No, Intec, non era il coso. Adesso ho cambiato, sono tutti uguali i microfoni, no, adesso sono con l'Intec, il 3104. Chiedevo a Luca se andava bene lì da lui. Ciao Scorpio, sì, tutto a posto, perfetto. Sei quasi 9:20 qua, la Teloce, la radio è Super 5. Ok, grazie, dai, ciao, buonasera a tutti, buon proseguo di serata, ciao ciao. Ehi, ciao Marco, anch'io mi assento, se ci siete dopo. Come Scorpio? Prendi tu Marco, ciao Bombolo anche, ciao, riprendi Marco. A me mai chiamato Marco, non ho capito, cioè io gioco Claudio. No, Marco Pedifella l'ho chiamato, grazie, a Marco, ciao me, Condor. Ah, no, quasi teso Scorpio. Ha fatto un misto, io. Però Claudio adesso, rispetto a prima, la radio era chiara e rimbombante, è come leggermente più satura. Cosa hai messo? Il mic normale? Qualcosa è toccato sicuramente. Questo è l'Intec 3104 con l'MB+5. Non ho toccato niente Marco. Ma come fa? Non era Marco Scorpio o tu eri qua? Io ero, già sempre io sono. Allucinante. sembravi Marco, allucinante, guarda, l'erba forse un attimo, non lo so, sembravi lui veramente. Sì, vabbè, può capitare, abbiamo un po' la tonalità simile, anche il comportamento un po' simile, è sempre quello. Io ho imparato tante cose da lui, quindi no, non mi vergogno. Va bene, ciao a tutti di nuovo. Marco, io non ho toccato niente. Luca, Marco mi sta dicendo che sono saturo. Assolutamente no, ha capito che la bambina ha fatto la cacca, cacca, cacca. Ah, mia, comunque sta arrivando bene, va bene, cla. Io non ti sento saturo. Marco, ogni tanto le fa sentire la radio, dai. Ciao Marco lì, che è pronta la cena. Un abbraccio a tutti e buon proseguo di serata, dai. No, ho aperto la finestra. Se chiudo la finestra, Marco, rimbomba molto di più. Ok, siccome c'è anche abbastanza caldo qua, quindi ho aperto un po' la finestra, sicuramente il rimbombo non lo senti più, ok? No, no, è proprio diversa la modulazione rispetto a prima. Diversa. E c'è meno pulizia di modulazione, molta meno. Perciò ho detto, hai cambiato mic, hai messo il normale, è strano, è strano, non è assolutamente come prima, non dico saturazione, ma è meno pulita, meno pulizia, cosa vuoi ti dico? L'NL l'ho tolto, uno sblank, tutto tolto è qua, nudo e crudo, dai. Non so, voi avete sentito qualche differenza, qualcosa, Antonio, Antonello? No, io ti sento chiaro. Non è un problema, cioè, è diversa perché è diversa, però non c'è nessun tipo di problema. Vabbè, i microfoni sono tutti uguali, però le radio cambiano, ma io mi sono ascoltato prima di fare appunto le prove. Radio 5, abbastanza chiara, non vedo niente, non sento niente di anomalo. Vabbè Marco, non è un problema, dai. Evidentemente, non lo so, comunque, la radio è sempre questa, quella che stavo usando poco fa, che mi ha detto che c'era troppo a rimbombo. Va bene, dai, di nuovo, non riprendo più, ciao a tutti, vai Antonio. Sì, ciao, ci sentiamo alle prossime. Avanti Antonio, la tua già andrebbe bene un bel che in modo a casa tua, lì non c'è problema di QRM né di nulla, dato lì traffico non ne hai. Cappa, se lo metto qua un apparecchio che ha un bel che modo, che sicuramente la musica cambia molto, anche con un bel microfono. Già pompa già, e cambiano anche molto di segnale secondo me. Quindi Marco, confermi che questa è più chiara la modulazione? Sì, molto, molto di più. C'è un abisso proprio di volume, di modulazione, anche di pulizia della modulazione. Eppure i microfoni sono gli stessi, ho invertito i microfoni, non lo so. Sono gli stessi i microfoni, più 5 uno, più 5 l'altro. Ma infatti ho detto, è strano perché gli altri sono chiari, vabbè a parte Pomponio che è sempre cupo, qualcosa che non va. Antonio è limpido, Luca era limpido, sì ma una netta differenza orecchiometro, adesso non so se Antonio se ne è accorto, Antonio. Ah, qualcosa cambia, ma non più di tanto. Non c'è tantissima differenza. Ma per me va bene, dai, ci sta. Vabbè, rimetto allora il microfono davvero, dai. Li ho invertiti, non ho fatto niente, la radio è sempre la stessa, quindi può darsi pure che siano le capsule diverse, non lo so, vabbè. Ok, dai, di nuovo, ciao a tutti, l'importante è che funzionino, purtroppo non possiamo pretendere miracoli da queste radio che hanno 40 anni. Tutto qua, dai, buonasera a tutti, Antonio, a te il cambio, ciao ciao. Ciao Cla, ci sentiamo alle prossime, stavi bene. A te che mi stavo chiamando. Non lo so. Poi Toni, può esserci qualche piccola differenza da una all'altra. Break, fate il break. Buonasera, dai. Già riportabile. Appa già, c'è una bomba qua. Buonasera. Buonasera a te. Stavo provando a portarmi. tastierino a quello nuovo per vedere come è andato. Una bomba, dice in casa, si guarda a fondo scala, no? Sì, io Gianni, ma hai attaccato, si è detto uno scatto netto, tac. Adesso sì, ho provato a attaccare, dai, come va? Bene, qual è il solito? Quello che uso in macchina, ma che non userò più adesso perché dovrò fare l'impianto, mi sono deciso, dai. Purché parli vicino al mic, Gianni, quale stai usando, il mic interno o quello esterno? No, quello interno. Va bene, va bene. Cioè è una modulazione tipo omologato, non, ovviamente tipo omologato, però è abbastanza chiara. Ehi, ti lascio con Gianni un attimo, con Pomponio vado a fare il caffè, dai, riprendete voi. No, no, io sto andando, devo fare da mangiare a casa, stavo provando solo questo apparecchio con un alimentatore nuovo per vedere se andava bene, dai. Alla grande, ma non ce l'ha il compander o già quella radio? Non ce l'ha? Compander. Che apparecchio è? Intec? Ehi, a Intec, che c'ha tutto questo, questo c'ha, puoi andare sopra, sotto, c'ha tutto, c'ha tutti i canali. Guarda che ci dovrebbe essere, adesso non mi ricordo, c'è quello che c'aveva anche Babbo, che ce l'ha ancora, dovrebbe esserci il compander, praticamente ti aumenta la modulazione, te la fa fantastica, te la fa, capito? Comunque va bene capo, ora sei con la Game Master. Sì, adesso sì, Antonio, adesso sono con la Game Master. E va bene, è per l'alimentatore più che altro, adesso te lo porto a casa, questo qua, e magari lo metto nella stazione. Capo, non sei a casa tua? Sì, dico, lo lascio a casa, capito? In macchina metterò un altro apparecchio, capito? Sì, guarda, vai, alla grande vai. Non so come mi senti tu, ma c'è anche il coso del segnale, mi sembra, c'è lo smitter digitale, è vero? Sì, Antu, c'è anche quello, sì. Sì, ma dovrebbe essere quello, dovrebbe essere. È un apparecchio eccezionale. Poi non mi ricordo, c'ha un coso per aumentare la modulazione pure, ma ci vuole davvero, vero? È buono, te lo sto dicendo perché è buono. E io già me lo ricordo che ce l'avevate anche tu. Sì, sì, sì. È una bomboletta. Non te lo ricordi già chi è il tasto? Perché c'è un tastino che aumenta la modulazione, ma funziona con una meraviglia. No, io Anto non l'ho mai avuto questo qua, ce l'ho da poco, ma non c'ho le istruzioni, capito? Capa, bisogna, perché io non me lo ricordo che tasto è adesso. Non me lo ricordo, ma se schiacci quel tasto ti aumenta parecchio la modulazione, te la fa anche molto bella. Vabbè, tanto non lo devo usare, lo stavo solo provando. Più che altro l'alimentatore, perché questo alimentatore mi sembrava che non funzionasse bene, invece va bene. Ma sto scherzando, che alimentatore? Switch! Quello cinese? No, no. Quelli con gli strumenti. Va bene, cavolo. No, sì, vabbè, per quel portatilino. Va benissimo, va. Vabbè, ho già dimmo, non è cinese, gira come vuoi, ma sono tutti, alla fine i componentisti che sta venendo tutta la limmi ultimamente, soprattutto i switching. Gianni. Sì, ce l'ha, tasto SP, speak processor, alias compander, ce l'ha anche quello. Schiaccia, ehi, chi istruirà? Prova adesso come va. Schiaccia, ha migliorato. Migliorato? Ma come segnale o come radio? Come radio, è bella adesso, no. Ciao Massimiliano, sì già è più espansa, ma anche in ricezione funziona il compander, guarda un po'. Non lo so, vabbè dai, tanto non lo devo usare questo qua, se l'ho provato e basta, ce l'ho perché ce l'ho, ma non è che lo uso qua in stazione, lo stavo solo provando e buh. Va bene così, dai. Andà bene Marco, dai, ci sentiamo. Ciao a tutti, ciao a Bulldozer, mi è sembrato che ha fatto cucù. Buonasera e buonasera Antonio e tutti gli altri amici, dai, ci sentiamo. Devo andare a preparare a mangiare al cane. Una bella modulazione proprio, complimenti. Ok, avanti Massimiliano. Sì, dai, ciao, buonasera a tutti, guarda. Anche io sto aspettando la cena. Ero di passaggio, va. Ciao Massimiliano, ma ben entrato. Sì, Gianni non sapevo nemmeno che c'era il compander probabilmente lì. Perché io l'ho avuto su certi apparecchi veicolari, ma era brutto, brutto. Peggiorava la ricezione. Solo che non ti so dire che apparecchio Intac era dove avevo il compander, non me lo ricordo proprio. Forse era il 48 XL Multi. Sì, quello che ho dato a Eugenio, 48 XL Multi. In ricezione mi abbruttiva molto le modulazioni, troppo. Vai Massimiliano, riprendete con Bombo, che vado a fare sto caffè benedetto. Sì, positivo. Ok, no, io c'avevo il 520 Plus, come quello che c'aveva il padre di Bombo. AM, FM, e mi sembra arrivava intorno ai 30 MHz, una cosa del genere. Tanto non ho sentito niente che Marco ti ha completamente coperto. Vai così, mi ha detto. Cioè, da liscio passavo io con 3 watt, non è possibile. Sì, l'hai completamente annientato. Bravo, ma... No, Antonio, abbiamo ripreso in due, cioè non è che ho ripreso dopo che hai ripreso tu. Abbiamo ripreso in due, ma all'anima io c'ho sempre il filtro, da 4 watt diventano 3 watt miseri. E vabbè, probabilmente l'altezza che fa, dai. Ok, a dopo, un attimino. Marco. Eia. E questo com'è? Uguale all'altro? Forte. Effetto stanza, però almeno. Io ho sentito una netta differenza, ma come stai andando i microfoni? A batteria o alimentati dalla radio? Perché una batteria potrebbe essere in condizioni un po' precarie, mi. No, sono tutti a batteria. Sono tutte e 5 a batteria, MB più 5, tutte e 5 a batteria, uno per ogni vintage. Questo è, ho invertito di nuovo, adesso ho messo quello che stavo usando prima, l'ho rimesso sull'Intec 3104. E vabbè, alla fine tra l'uno e l'altro, comunque c'era, quando te l'ho detto di qualità più, era più bassa di radio, meno espansa ed era come di qualità, che casino che sta facendo mamma. Scusate un attimo. Dai, non ti preoccupare, riprendi Antonio, dai, buonasera a tutti, già sono qua in ascolto, sto facendo queste prove con il microfono. Non c'è problema, dai. Massimiliano, come ti arrivo lì? Prova tu. 2-3 prova. Santiago 8, sì, 41. Già va bene, dai. Già va bene, meglio di niente, dai. Comunque, quella là adesso, un giorno, quando c'è un po' più di calma, l'altra antenna, la devo guardare bene e la devo aggiustare, la devo. A me non me la tengo di scorta, non si sa mai. Va bene. Tanto mi hanno chiamato per la cena, va? Ok, ci sentiamo. Ciao. Ciao Massimiliano, dai, ci risentiamo. Ciao Massimiliano, dai, buona cena, buon tutto e ci sentiamo le prossime. Vediamo se Claudio rientra, se deve far prove, io vado a fare sto benedetto caffè, dai, non riprendo per un po', dai. Sì, ma Marco, adesso ho cambiato di nuovo, cioè praticamente ho preso quello del DAC e l'ho messo qua sempre sul 3104, sempre l'Intec base. Per me non cambia niente, io sono in cuffie, c'è una leggera differenza di acuti, qualcosa del genere, però la modulazione è sempre quella. Sono tutte e 5 uguali i microfoni. No, ma infatti questa è buona, cioè se tu adesso hai messo il mic, che prima ti ho detto che non lo sentivo bene, adesso è ottimo. Ma non lo so, che ne so, magari è entrato male lo spinotto, non toccava bene, cosa ti dica? Però c'è stato proprio un netto calo in quel passaggio lì, un netto calo, l'ho notato subito, anzi gli altri l'hanno notato meno. Vuol dire che l'udito non è messo così male, adesso è te l'ho detto, forte, chiara, effetto stanza, purtroppo, però vabbè, non si può avere tutto. Ah, io me lo vedo i vaghi sul caffè. Vai, vai, sono qua, dai, dai, fate, altro riprendi, dai, sono qua. Perché mi ha attaccata l'acqua, da voi non è mancata l'acqua. E avanti. Sono entrato per altro per salutare, perché mi ero dimenticato che dovevo cambiare la sabbia ai gatti, ancora non l'ho cambiata, dovevo buttare l'indifferenziata, porca miseria, a meno che non la butti domani, è che poi si accumula, capito? E quindi se riesco a farlo in tempo lo faccio stasera, poi devo filtrare umido da buttare, devo togliere il brodetto che ci è rimasto, no? Se no cola tutto. E poi ci sentiamo quando capita. Non sono molto presente perché non è che mi senta molto in forma, mi capito? Granché bene. Stasera un po' fine serata, un po' meglio, però non mi sta piacendo la salute in soprattutto in questi ultimissimi giorni. Ok, ci sentiamo quando capita, chi ce l'ascolta si ritenga salutato. Ciao a tutti, ciao. Pronto. Cappa, dai, ce la risentiamo, dai. Vabbè, pure io ti saluto. Lasciamo vedere una cosa, no? Bella. Cappa, dai. Ma pure io ti saluto, ce la risentiamo domani, se coincide alle prossimine. Ciao, ciao. Ciao, ciao, buonanotte, ciao. Ciao, ciao. Tutti gli ascoltoni, ciao.